Aspetta che cambio radio un attimo. Cosa hai detto? Non ho capito. Chi è avanti? Fai la fanculo. Fischia e mette le gambe tua sorella. Ora, di cui dietro? Chi è avanti? Chi è avanti? Natalino, sto uscendo, sì.